Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Beppino Englaro, indagato dopo una denuncia del Comitato Verità e Vita, omicidio volontario, l'accusa per lui e altre 13 persone, ma è solo un atto dovuto, chiarisce la procura. Schifani, rinviare la legge sul testamento biologico. Il governo approva il disegno di legge sugli scioperi, in arrivo una stretta nel settore dei trasporti, è giusto autoregolarsi, dice Bonanni a Radio 24, così non va, attacca invece Epifani. E boom per la cassa integrazione. A dicembre, secondo l'Istat, l'occupazione è calata dello 0,7%, ma senza la cassa integrazione il calo sarebbe stato tre volte maggiore, meno 2,1%. E a Pomigliano d'Arco in migliaia sono scesi in piazza questa mattina a sostegno dei lavoratori della Fiat a casa da mesi, al loro fianco commercianti e lavoratori dell'indotto. Tangenti sulla Salerno-Reggio Calabria, arrestati tre imprenditori per l'accusa facevano da mediatori con l'Ndrangheta. Sempre più rinnovabili, comuni italiani che usano le energie alternative raddoppiano secondo Legambiente, in attesa del nucleare a Genova parte anche l'iniziativa sul risparmio. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E una buona giornata anche da Simone Spezia. Un atto dovuto, così la Procura di Udine definisce l'iscrizione nel registro degli indagati di Beppino Englaro, padre di Eluana, morta il 9 febbraio scorso alla clinica La Quiete di Udine. Questa la notizia di cronaca. Nel frattempo ci sono anche evoluzioni politiche, perché poco fa ha parlato il presidente del Senato, Renato Schifani, chiedendo un rinvio della discussione sulla legge, ma partiamo appunto dalla cronaca, da quel che succede ad Udine. In studio con noi la nostra collega Cristina Carpinelli. Cristina. Allora, buongiorno. Sì, come dicevate, Beppino Englaro e altre 13 persone, tra cui l'anestesista Amato De Monte, sono stati indagati dalla procura di Udine con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Ora, detta così la notizia, appare molto forte. In realtà è una questione procedurale, un atto atteso, come è stato definito dallo stesso legale degli Englaro, perché la storia è andata così. C'è stata una denuncia per omicidio volontario inviata dall'Associazione Verità e Vita alla Procura di Udine, 13 pagine, una vera e propria relazione dettagliata, alla quale la Procura ha risposto aprendo ovviamente un fascicolo, tutto sulla morte di Eluana Englaro, come dicevate, avvenuta il 9 febbraio scorso nella casa di riposo La Quiete, dopo 17 anni trascorsi in stato vegetativo persistente. Siamo sereni, ci ha detto Vittorio Angiolini, che è l'avvocato di Beppino Englaro, sentiamolo. Non c'è nulla di strano in questa notizia, perché che venga aperta indagine a fronte di esposti è normale che l'indagine sia a tutto tondo, vediamo che esito potrà avere questa indagine. Noi abbiamo la coscienza che tutto quello che è stato fatto regola d'arte, come andavano i giudici. Ecco, lei ha avuto modo di sentire ovviamente Beppino Englaro, che lei rappresenta, come ha preso questa notizia? Mi pare che l'abbia presa con serenità e naturalmente attende poi le risultanze delle indagini. E come sappiamo, Cristina, sul fronte politico c'era in attesa una legge sul testamento biologico, però questa mattina l'intervento di Schifani, il presidente del Senato, che sembra rinviare. Allora, io farei un passo indietro, Alessio, perché è un tema molto caldo, il dibattito politico appunto si sta scaldando su questo tema del testamento biologico. La vicenda direi che segue due grossi filoni: c'è un gruppo bipartisan, cioè con esponenti di centrodestra e centrosinistra, che di fatto sta chiedendo di far slittare qualsiasi decisione in merito al biotestamento a dopo le elezioni europee. Però questo fronte bipartisan è stato già in qualche modo archiviato da chi invece vuole arrivare anche velocemente a far approvare il disegno di legge. Tra loro ci sono anche ovviamente il relatore di maggioranza del testo, Raffaele Calabrò, ma anche il presidente dei senatori del PD, Anna Finocchiario. E così, seppure con uno slittamento di qualche giorno rispetto al 5 marzo, come avete detto, la notizia è stata confermata poco fa dallo stesso presidente del Senato Schifani, il disegno di legge andrà in aula e si trascinerà con sé divisioni, ovviamente contraddizioni, perché per la cronaca già ieri circolavano voci che due, possiamo definirli dissidenti del Popolo della Libertà, cioè Ferruccio Saro, amico di famiglia di Beppino Englaro, e Lucio Malan, di Confessione Valdese, sono da sempre perplessi sul testo di maggioranza e sembrava appunto già ieri che fossero stati sostituiti dalla Commissione Affari Costituzionali. La notizia ovviamente è rientrata, insomma è stata smentita, ma tutto questo ve lo segnaliamo perché dà proprio il polso di come si stia andando al voto di una legge così delicata. E nel frattempo, appunto, anche il presidente del Senato interviene a fianco di un altro gruppo, diciamo così, bipartisan, per il rinvio della legge. Bene, grazie a Cristina Carpinelli per questi aggiornamenti. Alessio, passiamo a parlare del famoso disegno di legge sugli scioperi, tema che stiamo trattando da tre giorni. Siamo arrivati al Sì, questa mattina siamo arrivati al dunque. Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il disegno di legge. Allora andiamo con Paola Cavadi. Sì, buongiorno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità questa mattina il DDL delega che modifica le norme sullo sciopero nel settore dei trasporti. Per il governo la norma intende conciliare meglio due diritti garantiti dalla Costituzione, il diritto alla mobilità dei cittadini e quello allo sciopero dei lavoratori. Si tratta di un disegno di legge delega, il che vuol dire che una volta approvato dai due rami del Parlamento, il governo ne darà attuazione attraverso decreti delegati. Queste le principali novità introdotte. Per poter proclamare uno sciopero, un sindacato dovrà rappresentare almeno il 50% dei lavoratori, altrimenti si potrà indire un referendum, ma solo se il sindacato supera la soglia del 20% di rappresentatività. Perché lo sciopero poi venga effettivamente proclamato, devono votare a favore almeno il 30% dei lavoratori. La questione dell'adesione individuale preventiva viene demandata alla contrattazione collettiva. Anche lo sciopero virtuale, cioè la possibilità di scioperare senza tenersi dal lavoro, sarà disciplinato dai contratti. Sentiamo a questo proposito un passaggio della conferenza stampa di Sacconi. Possono essere diverse le modalità, con o senza trattenuta dal salario. In questo caso ci deve essere un danno anche per la controparte, la quale deve fare un versamento più che proporzionato alla rinuncia del lavoratore. Oppure può essere anche effettuato senza rinuncia, come forma di protesta, con la fascia al braccio, con un segno distintivo che indica uno stato di malessere, di agitazione senza interruzione del servizio, ma saranno le parti a disciplinarlo. Sacconi ha detto che il percorso che il governo ha seguito è stato cauto e rispettoso del più ampio confronto con le parti sociali. Una risposta chiara al segretario della CGIL Epifani, che aveva parlato del rischio di una svolta autoritaria da parte del governo. Sentiamo ancora Sacconi. Una volta prodotti i decreti delegati, la soluzione contrattuale è quella preferita. Quindi tutte le preoccupazioni o addirittura le critiche pregiudiziali che hanno parlato qualcuno addirittura di soluzioni autoritarie sono assolutamente fuori luogo, data anche la disponibilità riscontrata nella gran parte degli attori sociali. Paola, accennavi te al segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, ci sono reazioni e divisioni anche nel mondo sindacale su questo fronte? Effettivamente le parole di Epifani hanno suscitato qualche critica anche da parte del segretario della CISL Bonanni. Sentiamolo. Da quello che mi risulta presenta un disegno di legge delega e quindi dà tempo alle parti sociali di trovare gli aggiustamenti, di trovare le soluzioni che loro possono trovare meglio del legislatore. E quindi Epifani ha ragione alla sola condizione che non sia questo un espediente, come gli succede spesso, di buttare sabbia negli ingranaggi. E invece, proprio per la nostra responsabilità e per l'esercizio pieno del diritto di sciopero, che deve risultare inviolabile, noi dobbiamo saper responsabilmente regolare, noi e gli imprenditori, la partita in modo tale che poi il legislatore possa utilizzare gli accordi fatti e trasformare in legge. Però tutti questi alto là e così via mi paiono il modo per creare allarmismo e non dare la giusta dimensione ai problemi che si hanno di fronte. Questo dunque il segretario della CISL Bonanni sul varo del disegno di legge delega per la riforma dello sciopero. Grazie a Paola Cavadi. Sentivamo dai titoli che boom di cassa integrazione in questi mesi in Italia. I numeri li daremo tra poco più avanti. Intanto però andiamo a Pomigliano, dove c'è stata una manifestazione questa mattina a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Fiat. Dalle 9 alle 13 fermo tutto il comune, le aziende del settore della zona sono in sciopero, le associazioni dei commercianti hanno chiesto che si attui una serrata. Al corteo, indetto per i timori di un ridimensionamento della produzione di auto nello stabilimento del Napoletano, ha partecipato anche il vescovo di Nola, Beniamino De Palma. Allora, sentiamo com'è andata dalla nostra Laura Vigiano. Laura, hai seguito questo corteo? Che cosa è successo? Sì, si è svolto svolto tutto con grande tranquillità. Quello che si chiede ai lavoratori, quello che ha chiesto anche il vescovo De Palma, è stato un minimo di serenità, di non aver paura e di restare uniti. Un corteo di circa 10.000 persone è sfilato per le strade di Pomigliano d'Arco, dove tutto era chiuso, come avete detto voi da studio, per giungere poi in Piazza Primavera, dove si sono svolti i comizi dei rappresentanti istituzionali locali e regionali e dei rappresentanti sindacali dei metalmeccanici. La manifestazione si è chiusa con l'intervento di Gianni Rinaldini, numero uno di FIOM nazionale. Quello che si chiede alla Fiat è un piano industriale e occupazionale, perché le incognite del futuro sono troppe e rendono ancora più pesanti le 19 settimane di cassa integrazione trascorse. Insomma, Rinaldini ai nostri microfoni chiede chiarezza. Molto semplice, Marchionne è scomparso, non dice più nulla, fa delle interviste casomai sui giornali inglesi dicendo che sopravviveranno soltanto 6 gruppi industriali, a noi non dice nulla. E questa è una situazione che non è oltre tollerabile, per questo che anche nell'intervento ho richiamato il fatto che a questo punto venga fuori anche la proprietà, per essere più precisi, Elkan è il rappresentante della famiglia. Grazie a Laura Viggiano. Cambiamo argomento. Fino ad oggi è stato preso a modello per la correttezza del tifo. Parliamo del basket. I tifosi sugli spalti dei palazzetti se la sono sempre cavata bene. Ora però il basket italiano è alle prese con un caso che potrebbe cambiare le carte in tavola. Carlo Genta, di che parliamo? Della trasferta della Virtus ad Avellino? Ad Avellino, buongiorno a tutti. Trasferta della Virtus ad Avellino. Matteo Bonicioli, ora allenatore della Virtus, fino a pochi mesi fa autore di un miracolo ad Avellino, perché ha preso questo club, ha vinto la Coppa Italia, l'ha portato in Eurolega, semifinale scudetto, una grandissima stagione quella di Bonicioli, che poi ha lasciato il club per tornare, lui triestino, vicino alla sua famiglia. Questa è la versione ufficiale. Ad Avellino non l'hanno mai presa benissimo, poi Bonicioli ha firmato per la Virtus Bologna, quindi è tornato su una panchina di Serie A, allenatore dell'anno l'anno scorso, e ora Sabatini, padrone della Virtus, trasferta della Virtus ad Avellino, ha deciso che il suo allenatore non seguirà la squadra perché sono state minacce, perché c'è pericoli di ordine pubblico intorno a questa partita. Questa è la decisione di Sabatini, Bonicioli non l'ha presa bene, però attenzione. È reale il pericolo, Carlo, secondo te? Ma sono minacce, sono cose un po' tristi che spesso capitano nello sport. Forse molto semplicemente il basket non è abituato a questo. Attenzione Simone, perché solo 2 settimane fa eravamo qui a parlare anche in Palla Spicchi, che andrà in onda alle 14, e poi ne parleremo naturalmente anche di questo caso. Eravamo qui a parlare dei tifosi di Caserta che erano andati a protestare duramente nei confronti della squadra, erano andati in campo durante un allenamento, avevano interrotto l'allenamento, erano volate parole grosse, eccetera eccetera. Poi il caso si è sgonfiato, come spesso capita nello sport, però l'importante è non dimenticarseni mai questi casi qui, perché ritornano, vedete, purtroppo. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Beppino Englaro, padre di Luana, è indagato dalla procura di Udine per omicidio volontario, stessa accusa per altre 13 persone, tra cui il primario anestesista Amato De Monte e tutti gli infermieri che hanno seguito Luana durante il suo ricovero alla casa di riposo La Quiete di Udine. Sentiamo Vittorio Angiolini, avvocato di Beppino Englaro. Non c'è nulla di strano in questa notizia, è normale che l'indagine sia a tutto tondo, noi abbiamo la coscienza che tutto quello che è stato fatto a regola d'arte, come andavano i giudici. E intanto anche il presidente del Senato Schifani chiede un rinvio della discussione della legge sul testamento biologico, come aveva già fatto un gruppo di parlamentari di entrambi gli schieramenti. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di riforma degli scioperi nei servizi pubblici e nei trasporti, in particolare previsti il referendum preventivo e lo sciopero virtuale. Così come è, non va bene, attacca il leader della CGIL Guglielmo Epifani. Citigroup ha raggiunto un accordo con il tesoro statunitense per convertire una significativa porzione dei suoi titoli privilegiati in azioni ordinarie della banca, lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Dati negativi per l'economia italiana, innanzitutto quelli sull'occupazione nelle grandi imprese, scesa dello 0,7% in dicembre rispetto ad un anno prima. E poi ci sono le stime di Confindustria sulla produzione industriale, che prevede un calo del 15% nel mese di febbraio. Manifestazione a Pomigliano nel Napoletano a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Fiat. Le aziende della zona sono in sciopero, le associazioni dei commercianti hanno chiesto la serrata. Il corteo è stato organizzato per i timori di un ridimensionamento della produzione nello stabilimento. In Calabria i carabinieri hanno arrestato 3 imprenditori per gli appalti sulla Salerno-Reggio. Sono accusati di aver fatto da mediatori con l'Ndrangheta. Raddoppiato in un anno il numero dei comuni che fa uso di energie rinnovabili, erano 3.000, oggi sono 6.000. I dati emergono da un rapporto di Legambiente. Fa discutere il nuovo giro di vita sulla cosiddetta movida romana. A luna di notte dovranno chiudere i laboratori artigianali e non solo, che vendono cornetti, pizza al taglio, gelati, panini. Insomma, un colpo in qualche modo anche alla tradizione. Davide Bordoni, assessore alle attività produttive del Comune di Roma. Perché? Salve. No, ma guardi, intanto i pubblici esercizi rimarranno aperti fino alle 2 di notte e poi la legge regionale prevedeva la chiusura alle 22 dei laboratori artigianali e noi abbiamo dato la possibilità di stare aperti fino all'una di notte e oggi c'è un tavolo anche con le associazioni di categoria per discutere di questa ordinanza che da qui a qualche giorno dovremo emettere, quindi i pubblici esercizi che poi hanno la deroga per vendere cornetti e gelati lo possono fare tranquillamente, quindi i romani potranno tranquillamente gustare queste specialità. La questione era che i laboratori artigianali non avevano un orario di chiusura, o meglio c'era una legge regionale che prevedeva le 22, ma mai nessuno l'aveva fatta rispettare, quindi da questo punto di vista da diversi mesi stavamo lavorando insieme anche alle associazioni di quartiere, perché in molte attività del centro rimanevano aperte tutta la notte, creando non pochi problemi non solo alla sicurezza ma anche ai residenti. Quindi da questo punto di vista abbiamo deciso di colmare un vuoto. E perché problemi di sicurezza, assessore? Perché una yogurteria, un pub aperto in alcune piazze, alcune vie del centro fino alle 4, alle 5 del mattino, a parte che faceva una concorrenza sleale ai pubblici esercizi, ma poi di fatto questi erano laboratori artigianali che però venivano trasformati in pubblici esercizi senza gli elementi che la legge prevede per i pubblici esercizi, quindi erano di fatto una concorrenza sleale nei confronti dei commercianti che devono rispettare alcune normative che i laboratori artigianali sono derogati, dispensati, proprio perché laboratori, e quindi da questo punto di vista siamo intervenuti. Assessore, facciamo un po' di chiarezza sugli orari, perché avete ripristinato contestualmente la possibilità di distribuire alcolici oltre le 21, invece qual è l'orario quale scatterà questo ulteriore divieto? Allora, l'ordinanza presa dal prefetto e dal sindaco per quanto riguarda l'alcol era per l'asporto, quindi si poteva consumare l'alcol dopo le 21 dentro i locali, non si poteva fare l'asporto, quindi non è che avevamo vietato l'alcol, perché forse è stata data una comunicazione errata. Finito questi problemi di ordine pubblico, alcuni episodi che ci sono stati in centro, e uno dei problemi che era emerso è che questi laboratori artigianali, tutto l'elenco che lei ha fatto, kebab, pizze a taglio, gelaterie, pasticcerie, non avevano un orario e di fatto la Polizia Municipale ci aveva chiesto di dare un orario di chiusura in maniera tale che si potesse poi intervenire in quei locali che non rispettavano anche per quanto riguarda la guida pubblica. Assessore, mi scusi, in chiusura una domanda e ci risponda un sì o un no. In una metropoli di 4 milioni di abitanti, sostanzialmente, se verrà approvata l'ordinanza, dopo le 2 di notte non sarà possibile mangiare un cornetto? No, ci sono quei pubblici esercizi che hanno la facoltà di stare aperti tutta la notte e dove si potrà continuare a utilizzare questa, a consumare queste cose. Grazie all'assessore Davide Bordoni, attività produttive del Comune di Roma, per essere stato con noi. Continuiamo a parlare di politica, questa è sicuramente una decisione che farà discutere naturalmente anche la politica romana e non solo. Sì, la famosa fantasia, diciamo così, dei sindaci nell'emettere le ordinanze. Chiudiamo oggi le nostre interviste ai giovani del Partito Democratico e andiamo di nuovo nella segreteria, nella nuova segreteria di Dario Franceschini, composta da 9 persone. Tra queste c'è Maurizio Martina, bergamasco, 30 anni, segretario lombardo del Partito Democratico e ora nella squadra chiamata da Dario Franceschini a rilanciare il partito. Lo ha sentito Valentina Furlanetto. penso ad un Partito Democratico fortemente ancorato al tema della crisi, vicino alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori che stanno subendo una situazione mai vista, anche in un territorio che ha sempre generato ricchezza come questo. Qual è stato l'errore più grande del PD negli ultimi tempi? Credo che ci siamo fatti un po', diciamo, male da soli, troppa autoreferenzialità, troppe discussioni interne. In realtà più il Partito Democratico esce dalle sue stanze, più parla con la gente, più ha forza, più acquisisce forza, credibilità. Una provocazione che riguarda il rinnovamento. Ieri in Lettonia, paese in forte crisi economica, è stato nominato premier un politico di 37 anni. Sarebbe mai possibile in Italia? Ma io me lo auguro sinceramente. È vero che questo paese è un paese gerontocratico dove i rinnovamenti, quando si fanno, magari hanno più di 40 anni e sembrano dei miracoli. La cosa che dico è che anche i partiti, più che predicarlo il rinnovamento, lo devono praticare nella quotidianità. Mi permetta un'altra provocazione, visto che parlava di un partito che deve essere più vicino ai problemi reali della gente. Lo sa quanto costa un chilo di pane in Italia? So che dalle mie parti si arriva anche all'1,5 euro, 2 euro. È incredibile come è aumentato il costo della vita. Questo dunque Maurizio Martina al microfono di Valentina Furlanetto. Parliamo di ambiente. Sono quasi raddoppiati i comuni in Italia che utilizzano fonti di energia rinnovabile. Lo certifica il rapporto di Legambiente sui comuni appunto rinnovabili. Ce ne parla Chiara Di Michele. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno. Sono sempre di più i comuni italiani che utilizzano le fonti rinnovabili per produrre energia. Secondo il dossier di Legambiente presentato oggi, come dicevate, si è quasi raddoppiato il numero dei comuni in Italia dove è installato almeno un impianto da fonti rinnovabili. Erano poco più di 3.000 nel 2007, sono diventati circa 6.000 nel 2008. Praticamente il 79% dei comuni italiani sfrutta le fonti rinnovabili. Le esperienze più interessanti sono in Trentino Alto Adige. Legambiente ha premiato i comuni di Dobbiaco e Prato allo Stelvio, che con un mix di fonti pulite producono più energia di quanta ne venga consumata sul territorio. Il risparmio in bolletta può arrivare fino al 30-40%. Poi c'è il Salento, con la città di Lecce completamente autonoma dal punto di vista elettrico. La crescita, secondo i dati, ha coinvolto tutte le fonti di energia pulita. C'è stato il boom del fotovoltaico, bisogna fare di più per il solare termico, poi bisogna realizzare i grandi impianti da eolico, geotermico e biomassa. Insomma, secondo Legambiente, il territorio italiano possiede tutte le risorse per diventare il palcoscenico di una rivoluzione energetica incentrata sulle rinnovabili. Servono però regole più semplici. È tutto, a voi la linea. Grazie Chiara. E nel frattempo, proprio a proposito di energia, si stanno moltiplicando, in attesa di centrali nucleari o di altre fonti di energia rinnovabili, le iniziative per il risparmio per le imprese private e gli enti pubblici. In Liguria si comincia così. A Genova, in Liguria, terra che fa della parsimonia vera o presunta un tratto distintivo, ora si risparmia anche sull'illuminazione pubblica. Così infatti ha deciso la Regione, che ha elaborato un regolamento pronto per essere approvato. In tempi di crisi si rispolverano norme da austerity anni 70, contando sull'apporto della tecnologia. Spazio quindi ad impianti intelligenti, rottamazione delle lampade ad incandescenza per far posto a quelle a risparmio energetico. Lungo le strade, tra la mezzanotte fino all'alba, fari e lampioni dovranno avere una potenza ridotta di almeno il 30%. Pure i privati si adegueranno. Le insegne dei negozi dovranno spegnersi entro la mezzanotte, ad eccezione dei locali aperti oltre quell'ora. Eccezioni sono previste anche per il periodo natalizio e per le feste patronali. I monumenti saranno esonerati dal blackout risparmioso, a patto che si utilizzino luci a bassa potenza ed orientate dal basso all'alto. Divieto assoluto invece per i fasci in luce sparati verso il cielo, tipo fari o laser. In questo caso, spiegano all'assessorato all'ambiente, si riduce l'inquinamento e si vedono meglio le stelle. Andrea Ferro, GR24. 4 sole 24 ore, Genova. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Beppino Englaro, padre di Luana, indagato dalla procura di Udine per omicidio volontario, stessa accusa per altre 13 persone, tra cui il primario anestesista Amato De Monte e tutti gli infermieri che hanno seguito Luana durante il suo ricovero alla casa di riposo La Quiete di Udine. Sentiamo Vittorio Angiolini, avvocato di Beppino Englaro. Non c'è nulla di strano in questa notizia, è normale che l'indagine sia a tutto tondo, noi abbiamo la coscienza che tutto quello che è stato fatto a regola d'arte come andavano i giudici. E intanto anche il presidente del Senato Renato Schifani chiede un rinvio della discussione della legge sul testamento biologico, come aveva già fatto un gruppo di parlamentari di entrambi gli schieramenti. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di riforma degli scioperi nei servizi pubblici, previsti il referendum preventivo e lo sciopero virtuale. Così come non va bene, attacca il leader della CGIL Guglielmo Epifani, il ministro del welfare Maurizio Sacconi, proprio sullo sciopero virtuale. Possono essere diverse le modalità, con o senza trattenuta dal salario. In questo caso ci deve essere un danno anche per la controparte, la quale deve fare un versamento più che proporzionato alla rinuncia del lavoratore. Oppure può essere anche effettuato senza rinuncia, come forma di protesta, con la fascia al braccio, con un segno distintivo che indica uno stato di malessere, di agitazione senza interruzione del servizio, ma saranno le parti a disciplinarlo. Citigroup ha raggiunto un accordo con il Tesoro americano per convertire una significativa porzione dei suoi titoli privilegiati in azioni ordinarie della banca. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, che cita una nota del Dipartimento del Tesoro americano. Dati negativi per l'economia italiana, quelli sull'occupazione nelle grandi imprese è scesa dello 0,7% in dicembre e poi le stime di Confindustria sulla produzione industriale. Si prevede un calo del 15% nel mese di febbraio. E a Pomigliano, nel napoletano, manifestazione a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Fiat. Le aziende della zona sono in sciopero. L'associazione dei commercianti chiedono la serrata. Il corteo organizzato per i timori di un ridimensionamento della produzione nello stabilimento Fiat. In Calabria i carabinieri hanno arrestato tre imprenditori per gli appalti sulla Salerno-Reggio Calabria. Sono accusati di aver fatto da mediatori con l'Andrangheta. E dunque, come detto, i dati economici della giornata. Parliamo dell'occupazione nelle grandi imprese, misurata dall'Istat, che è calata a dicembre dello 0,7% rispetto ad un anno prima, mentre è rimasta invariata rispetto a novembre. L'Istat però precisa che, se si considera il dato al netto della cassa integrazione, il calo dell'occupazione è ben maggiore, è il triplo, cioè il 2,1%. Tutto questo mentre, come sentivate dai titoli, le cose non andranno meglio sul fronte della produzione industriale. Stando ai dati, alle previsioni diffuse questa mattina da Confindustria, si registrerà un calo del 15% nel mese di febbraio. Questa la stima. Nel frattempo l'America continua a cercare di muoversi. Più tasse per i ricchi e un sistema sanitario per tutti. Queste sono state le parole usate dal presidente americano Barack Obama per lanciare ieri la sua rivoluzione sul welfare state in tempi di crisi economica. È una ricetta per trovare le risorse necessarie, non escludere nessuno dalle cure, da altre politiche sociali, necessarie proprio in questo momento di difficoltà dell'economia di mercato. Professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, è con noi? Sì, sono con voi. Buongiorno. Allora, secondo lei, quali le linee portanti di quest'idea di welfare state da parte di Obama? Che conseguenze porteranno? Bisogna vedere una serie di elementi esterni. La mia impressione è che il progetto sia realizzabile soltanto se il governo Obama, l'amministrazione Obama, adotta una politica estera che gli consente di ridurre sensibilmente le spese per la difesa. Se invece dovessero continuare a livello attuale le spese per la difesa, credo che il progetto sia inattuabile. E quindi è fondamentalmente un problema di risorse, dice lei? Direi sì, le risorse che si devono muovere sono di un'entità probabilmente senza pari, almeno in tempo di pace, nella storia. Cioè, questo tipo di spostamento di redditi all'interno del paese, finanziamenti al sistema finanziario perché rimanga in piedi, sono veramente di entità spaventosa. Può essere che Obama abbia voluto mandare a caro prezzo, visto che le risorse da mobilitare, come dice lei, sono ingentissime, un messaggio, un simbolo, insomma, di ottimismo alla nazione in un momento di così grossa difficoltà? Ma forse di ottimismo no, di presa di responsabilità sicuramente sì. Lui ha detto ripetutamente ce la possiamo fare solo se tutti si rendono conto che questo è un momento difficile, questo è un momento storico. Tra l'altro ha anche detto un'altra cosa, quelli che sono venuti prima di me vi hanno raccontato, vi hanno dato dei dati falsi. Professore, sembra anche essere un segnale di un cambio di mentalità complessivo che ormai si sta instaurando un po' in tutto il pianeta. Se mettiamo insieme questo piano di welfare americano, che qualcuno ha definito come la fine della cosiddetta Reaganomics, la seminazionalizzazione di Citigroup, della quale abbiamo avuto notizia poco fa, tutti gli interventi statali, sta cambiando qualcosa? Direi assolutamente di sì. Guardi, la prima impressione che ho avuto quando ho letto quello che Obama stava dicendo era qui c'è un ritorno alla socialdemocrazia, cioè a un intervento dello Stato molto forte nell'economia, che non esclude flessibilità e cose del genere, che però parte da grandezze globali in cui il governo si ritiene responsabile del raggiungimento di determinati obiettivi globali del sistema economia, mentre invece i governi precedenti non facevano nulla di questo. Grazie al professor De Aglio per essere stato con noi. Salutiamo Giulia Crivelli. No. Ciao Giulia. Cominciamo dalla Francia? Dalla Francia. Vai. Le Figaro, come molti altri giornali, apre sul, ma Le Figaro è quello che dà maggiore enfasi, sull'intervento di Sarkozy che a sua volta si muove per salvare i colossi dell'automobile. È successo in Italia, è successo naturalmente negli Stati Uniti. Quello che però chiede Sarkozy, più che delle misure, forse come in altri settori, più che delle misure dei singoli stati, un vero e proprio piano europeo per salvare questa importante industria appunto dell'Unione Europea. Naturalmente ieri è arrivata la notizia della Opel in Germania, che probabilmente sospenderà, insomma, o comunque ridurrà di molto le operazioni, quindi forse Sarkozy ha colto il momento giusto per appunto rendere questa questione, allargare questa questione a livello europeo. Giulia, a proposito di industria, ce n'è una della quale noi dovremmo sapere qualcosa, mettiamola così, e della quale parla l'Economist. Sì, addirittura uno speciale di 14 pagine, si chiama Cleaning Up, ed è un report proprio sul business dei rifiuti. Sappiamo che noi consumiamo probabilmente troppo, siamo molto più bravi a consumare che non a smaltire, ci sono alcuni rifiuti che si possono smaltire con relativa facilità, altri che invece sono o tossici o ingombranti, per esempio. Secondo l'Economist sta appunto diventando un vero e proprio business, che come tutti i business può essere un'opportunità, però siccome tocca anche alcune zone grigie dell'economia di alcuni paesi, è a fortissimo rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. E anche su questo purtroppo noi siamo forse i più esperti in assoluto in Europa, però l'Economist non ne fa assolutamente un problema italiano, ma è un vero e proprio problema globale. Grazie anche per oggi Giulia Crivelli. Adesso passiamo a due eventi culturali di questi giorni. Innanzitutto un'uscita cinematografica. Una storia senza lieto fine è ispirato alla vita di Rita Atria, collaboratrice di giustizia, il film La siciliana ribelle, da oggi nei cinema. Rita si uccise appena 17enne dopo la morte di Paolo Borsellino, temendo lei di non essere più protetta. Però, secondo il regista Marco Amenta, non è un film che parla di una sconfitta. Sentiamolo allora al microfono di Marta Cagnola. Per me è una storia di vittoria, perché comunque Rita, secondo me, vince la sua battaglia. Intanto osa ribellarsi a un sistema, e già questa è una vittoria, il fatto di alzare la testa e ribellarsi. Poi porta dietro le sbarre e fa arrestare decine e decine di mafiosi. È una vittoria di cambiamento di valori e ci fa capire che il cambiamento è possibile. Domani ce l'avremo già con ci proteggi. E qui c'è un lavoro. Dove eravate voi quando hanno ammazzato a mio fratellino? Sicuramente crescendo in Sicilia non puoi non vedere, insomma, che voglio dire, la criminalità organizzata, la mafia esiste. Non volevo neanche cadere nel retorico, cioè nell'iconografia classica dei mafiosi coraggiosi, forti, belli. Creano tra l'altro una voglia di imitazione, come è stato fatto tante volte, io sono contrario, in TV soprattutto, ma anche al cinema. Volevo fare qualcosa di diverso, e la storia di Rita è vedere la mafia da un punto di vista diverso, dagli occhi di una ragazzina che prima ha 10 anni, poi ne ha 17, una ragazzina che quindi ci fa vedere tutt'altro, ci fa vedere le brutture, le vigliaccherie, il lato brutto di questa organizzazione, e fa vedere che questi uomini d'onore alla fine non sono d'onore ma sono del disonore. Faccio mille progetti per il mio futuro, Mettiti qua. Ma appena esco dalla mia stanza mi accorgo che forse a causa della gente che mi sta vicino non si realizzeranno mai. A me ci sono stati film che quando avevo 18 anni, quando stavo crescendo, mi hanno dato una scintilla, L'attimo fuggente, Cinema Paradiso, ma anche dei libri, una strada, che un personaggio di un film che fa delle scelte audaci, scelte forti, scelte di ribellione, ti può aiutare proprio a uscire dal sentiero che hanno tracciato per te altri e ti fa scegliere il tuo sentiero. Per me è questa la cosa fondamentale, che non è solo contro la mafia, è la scelta di inventarsi ognuno la sua strada propria e la voglia di ribellarsi, anche non accettare tutto quello che ci viene dato con ignavia o con passività. E tra poco torneremo a parlare di criminalità organizzata, perché c'è stata un'importante operazione in Calabria. Questo subito dopo la pausa, ma prima l'altro evento culturale di questi giorni, ossia una grande mostra a Padova che celebra i 400 anni dal 1609, appunto quando Galileo puntò verso il cielo un cannocchiale, un manufatto da lui trasformato in strumento scientifico. Mostra che apre domani al pubblico. Il futuro di Galileo è una mostra, ma soprattutto un viaggio dal passato ai giorni nostri, che parte dalle ricerche e dalle intuizioni del grande scienziato Galileo Galilei. Una mostra che Padova, dove Galilei trascorse 18 anni fondamentali, gli dedica quale omaggio alla sua modernità straordinaria, alla sua capacità di precursore e innovatore. Uno scienziato che riuscì ad aprire sentieri percorsi ed esplorati ancora nei secoli a venire. L'esposizione padovana, che rientra nelle celebrazioni per i 400 anni dalle prime osservazioni astronomiche di Galilei con il cannocchiale, è stata allestita presso il Centro Culturale Altinate, curata da Sofia Talas, conservatrice del Museo di Storia della Fisica dell'Università di Padova, e da Giulio Peruzzi, docente di Storia della Scienza e della Tecnica sempre all'Università di Padova. A differenza di molti suoi coevi, Galileo è una persona modernissima, è in qualche modo un punto di passaggio in cui lo scienziato antico, un po' misticheggiante, un po' antiscientifico, un po' alchemico, un po' astrologo, diventa lo scienziato di oggi. Nello stesso tempo sottolineare che appunto da quel momento in poi la scienza è diventata veramente una forma di cultura essenziale per il miglioramento della vita degli uomini, non solo dal punto di vista del soddisfacimento di bisogni, ma anche delle capacità di comprendere il mondo che ci circonda. La mostra Il futuro di Galileo, in programma fino al 14 giugno, racconta il genio del grande scienziato in 6 diverse sezioni, più un prologo ed un epilogo, in cui sono esposti vari manoscritti originali e prime edizioni di testi fondamentali sui vari settori di ricerca da lui esplorati e numerosi degli strumenti da lui inventati e perfezionati. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Peppino Englaro, indagato dopo una denuncia del Comitato Verità e Vita, omicidio volontario, l'accusa per lui e altre 13 persone. Solo un atto dovuto, chiarisce la procura. Schifani, intanto al Presidente del Senato, dice di rinviare la legge sul testamento biologico. Il governo approva il disegno di legge sugli scioperi e in arrivo a una stretta nel settore dei trasporti. È giusto autoregolarsi, dice Bonanni. Così non va, attacca invece il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani. E boom per la cassa integrazione a dicembre. Secondo l'Istat l'occupazione è calata dello 0,7%, ma senza cassa integrazione il calo sarebbe stato 3 volte maggiore. E a Pomigliano d'Arco in migliaia sono scesi in piazza questa mattina a sostegno dei lavoratori della Fiat a casa da mesi, al loro fianco commercianti e lavoratori dell'indotto. Tangenti sulla Salerno-Reggio Calabria, arrestati 3 imprenditori. Sempre più rinnovabili, comuni italiani che usano le energie alternative raddoppiano secondo Legambiente. E andiamo proprio in Calabria, dove, come detto, ci sono tangenti sulla realizzazione della Salerno-Reggio Calabria e ci sono soprattutto 3 imprenditori che sono finiti in manette. I carabinieri del ROS di Catanzaro hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP in un'inchiesta sul pizzo che veniva chiesto alle imprese per le opere pubbliche in Calabria. I provvedimenti emessi dal GIP distrettuale erano in realtà 3, ma una persona si è resa irreperibile. Uno dei provvedimenti eseguiti riguarda un imprenditore assai noto di Lamezia Terme, Salvatore Mazzei, titolare di un'impresa edile che viene definito dai carabinieri del ROS come il rappresentante dell'andrangheta nell'infiltrazione nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Mazzei avrebbe svolto un ruolo di mediatore con la criminalità organizzata per garantire la tranquillità sui cantieri, promuovendo l'affidamento di subappalti ad altri imprenditori controllati dalle cosche ed assicurando anche la ripartizione dei proventi estorsivi. E tutto questo, sempre secondo l'impostazione accusatoria, a discapito delle capacità imprenditoriali, della professionalità, dei requisiti tecnici, dei mezzi impiegati e della qualità dei materiali forniti. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Grande dibattito ha scatenato nei giorni scorsi la presa di posizione del romanziere, autore e regista teatrale Alessandro Baricco, che dice: non diamo più i soldi ai teatri e agli enti lirici, non diamo più fondi pubblici, quei soldi devolviamoli alla scuola e alla televisione. In questi giorni a Torino sono riuniti gli assessori alla cultura, ebbene sentiamo che cosa ne pensano. Levata di scudi tra gli operatori contro la provocazione di Alessandro Baricco, che invita a dirottare i fondi per la cultura a sostegno del pubblico anziché di teatri, musei e orchestre. Ma a Torino, dove il delicato tema delle risorse è al centro della Conferenza Nazionale degli Assessori a Cultura e Turismo, di fatto nessuno osa negare che la questione è nodale. La voce di Alain Elkann, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino, e del direttore del Festival Scienza di Genova, Vittorio Bo. La sua provocazione è interessante perché fa riflettere. Poi io sono sempre di un'idea che anche nel mondo dell'arte, teatri, deve prevalere anche il buon senso. Io credo che se poteva servire una provocazione ha colpito. Non credo obiettivamente che ci possano essere delle out-out. Credo che poi vadano valutate, ci debbano essere sì delle attenzioni molto ma molto maggiori rispetto ai criteri di valutazione. D'accordo anche i politici, con il deputato PDL Gabriella Carlucci e l'assessore alla cultura del Comune di Roma Umberto Croppi. Baricco ha ragione. Però il palcoscenico, il teatro resta sempre la migliore forma anche di formazione. Alessandro Baricco è in una sorta di zona franca in cui gli è consentito di porsi una domanda così radicale e di darsi risposte altrettanto radicali. Io credo che abbia assolutamente ragione nel porre quel tipo di domanda. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. E ancora, se vogliamo, cronaca e teatro. Ricordate l'assalto al Teatro di Mosca da parte dei terroristi ceceni 6 anni fa? È diventato uno spettacolo teatrale portato in scena da una compagnia spagnola famosa, tra l'altro, per le sue performance originali. Lo spettacolo, che sarà a Milano fino al 7 marzo, l'ha visto per noi Alessandra Tedesco. Il 23 ottobre 2002. Più di 850 persone sono nel teatro Dubrovka di Mosca, uno dei tanti della città, per assistere allo spettacolo. Quando all'improvviso... un comando di 40 militanti armati ceceni fa irruzione e prende in ostaggio il pubblico. Lo spettacolo che porta in scena la compagnia spagnola La Fura d'Alsbaus è la ricostruzione più o meno fedele di quanto accadde in quei 3 giorni. Tutto il teatro diventa spazio scenico. Gli attori terroristi, incappucciati, scendono fra il pubblico per sistemare l'esplosivo. Attraverso uno schermo e telecamere piazzate nell'intero edificio e fuori, il pubblico può vedere quanto accade nel foyer o nei camerini, dove gli attori continuano ad essere i terroristi. L'ultimo rehén che abbandona la sala. Todos los que quedan dentro están muertos. En el asalto al teatro por parte de las fuerzas de seguridad han muerto todos los terroristas. Uno spettacolo quasi interamente in spagnolo con i sottotitoli, ma alla fine la lingua è poco importante. Gli attori, i suoni, lo spazio scenico dilatato, le immagini, tutto fa sì che lo spettatore si senta protagonista del dramma. Ci sono i dubbi umani di una giovane terrorista, la rabbia di un'altra che vuole vendicare la morte del figlio avvenuta per mano dei militari russi, la sete di potere e violenza di chi vuole mettersi a capo del gruppo. Ma c'è anche la paura degli attori del Dubrovka, anche loro sequestrati, l'egoismo di chi pensa a come fuggire senza valutare le conseguenze per gli altri. Dopo 3 giorni le forze speciali russe fecero irruzione, diffusero nell'aria un misterioso agente chimico. Tutti i terroristi furono uccisi e morirono almeno 130 ostaggi. Lo spettacolo però si ferma un attimo prima. Non vediamo i terroristi soffocati dal gas e i cadaveri, non serve. Perché tutto quanto rappresentato è già una condanna, una critica. La dimostrazione di come alla fine la violenza sia una sconfitta. Per tutti. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessio Maurizi, coordinata da Daniele Biacchessi, con in regia Pietro Lacorte. Il prossimo giornale radio è alle 15. GR Extra Large torna lunedì alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.